da piccolino e non me n'ero accorto. Ho ospitato un megalodonte sul mio corpo e fu dopo la prima trasferta di campionato che sotto la doccia tutti me l'hanno notato. Quando venni al mondo ebbi qualche complicazione, mi sono incastrato, attorcigliato al mio cordone, e tutte le ostetriche che mi stavano di fronte si sono attaccate al mio megalodonte. E il megalodonte, il megalodonte assomiglia a pollice senza unghie e senza impronte, cobra dal cappuccio e metà camaleonte, si dice che ti spruzzi col veleno dalla fronte. Il megalodonte, il megalodonte, un collo da giraffa e una testa da serpente, cova le sue uova per fare merenda e dopo aver mangiato si ritira nella tenda. Hey! Altro che malattia, altro che parassita, sembra un peso morto e ad un tratto prende vita. Va a dormire tardi e si sveglia un po' più là. L'unica è stancarlo con giochi di società, ed è proprio per questo che l'ho spesso condiviso, in nome della scienza a scopo curativo. È anticongestionante, resuscita i defunti in forma di supposta o lecca lecca per adulti. E il megalodonte, il megalodonte assomiglia a un pollice senza unghie e senza impronte, cobra dal cappuccio e metà camaleonte, si dice che ti spruzzi col veleno dalla fronte. Il megalodonte, un collo da giraffa e una testa da serpente, cova le sue uova per fare merenda e dopo aver mangiato si ritira nella tenda. Hey!